Ok, 1965. 65. Una cosa volevo chiederti. Qualcuno parlava anche delle copertine. C'erano delle copertine dei dischi anche profumate. Copertine normali, quelle vostre, o copertine particolari, quelli dei dischi vostri? Beh, quelli dischi del film, le copertine normali. C'erano fotografi, c'erano le foto, noi quattro vestiti così in maniera normale, che eravamo in giro per qualche città o a Torino qua e là, ma niente di straordinario. Però a parte uno un po' surreale che ci ha fatto la foto Dalla quella volta sul disco Salve. Come mai vi ha fatto la foto Dalla? Perché Dalla con qualcuno di Flipper gestiva uno studio di fotografia. Noi l'avevamo conosciuto molto bene al Piper di Viareggio, che abbiamo fatto quell'anno, il mese di agosto, insieme con Tony Sheridan e Lucio Dalla, che abbiamo conosciuto, e poi ci ha fatto questa foto sulla copertina di Salve Ragazzi. Quindi non era fondamentale la copertina, anche se per certi gruppi sì, perché c'erano dei gruppi che avevano le copertine profumate. No, beh, le copertine erano particolarmente ricercate, come soprattutto le fotografie. Certo. Allora si cercava molto la fotografia all'inglese, no? Sì. Sul treno, sulla stazione, su vecchi edifici, qualche mura sconnessa, no? Noi abbiamo proprio la copertina del nostro primo 45 giri, è stata fatta a Modena dal fotografo dei Nomadi. È proprio una foto molto particolare su questa vecchia muraglia un po' sconnessa con l'Edinburgh, molto all'inglese, molto. E poi la seconda copertina invece l'ha fatta mio fratello, che è architetto, e si è ispirato, ha fatto un collage di visi, di cose in bianco e nero, un po' sulla copertina, sull'ispirazione della copertina di Revolver dei Beatles. Ok. Quindi c'era effettivamente c'era una ricerca, almeno si cercava di trovare qualcuno che avesse cioè forse spinti da Sgt. Pepper, forse. Sì, quella è stata proprio una bomba proprio per tutti. Beh, la seconda bomba di Franco è Signora, vero? Cosa dici? È Signora, un brano di Giorgio Gaber e di Iannacci. Certo. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Gaber e gli abbiamo registrato questa canzone, lui ci ha concesso di registrarla, l'abbia messa nell'album, e mi sembra che hanno anche una versione giubbola, una canzone molto spiritosa, e un ricordo anche a Giorgio Gaber. Giorgio Gaber.